E allora, ancora in diretta dagli 87 nel 900, dunque iniziative che hanno percorso l'intero stivale nella giornata di ieri anche, abbiamo dato conto anche di un'iniziativa che si stava svolgendo proprio in questo momento a Barcellona, ma noi rimaniamo in Italia e andiamo invece in quel di Lecce. È importante notare quanto insomma ormai la lotta contro l'alta velocità abbia realmente assunto insomma una proporzione, una intensità un po' dappertutto, anche insomma nelle città meridionali. Dunque buongiorno, siamo in collegamento con una compagna di Lecce, ciao. Ciao. Ciao, allora ieri c'è stata questa importante iniziativa insomma di cui abbiamo sentito subito parlare. Descrivici un po' come sono andate le cose. Niente, ieri nel pomeriggio, insomma verso le 5, una ventina di solidali con la Valsusa e si è riusciti a bloccare la partenza di un treno per Roma, di un Freccia Argento se non sbaglio. E niente, c'è stato questo blocco dei binari, c'è stato un po' di disagio insomma per i viaggiatori, si è riusciti ad esprimere solidarietà nei confronti di Luca Bai e della Valsusa, ma anche a portare avanti insomma una tematica che è collaterale anche alla lotta della Valsusa, che è quella della costruzione di un gasdotto che dovrebbe approdare dall'Azerbaigian attraverso l'Adriatico, dovrebbe approdare un po' al di sopra di Otranto. Si chiama Trans-Adriatic Pipeline, TAP il suo acronimo, e quindi si è cercato di connettere un po' queste forme di lotta contro queste grandi opere. E il blocco è stato tenuto per una cinquantina di minuti e poi un corteo spontaneo è partito verso il centro della città, si è continuato così a megafonare e a volantinare. La solidarietà innanzitutto insomma va alla Valsusa, però ecco, abbiamo cercato di connettere questi temi proprio per far capire alla gente che in qualche modo ci ha ascoltati che queste grandi opere non riguardano soltanto il territorio in cui vengono costruite, ma insomma sono dei progetti di devastazione e di dominio che coinvolgono un po' tutti. Eh sì, assolutamente, anche perché appunto per essere un OTAV, secondo un motto che gira molto in questi giorni, non c'è bisogno di essere valligiani, anche perché l'arroganza con cui si costruiscono progetti sulla pelle della gente, pernacchia che ogni tanto insomma interviene per disturbarci. Dicevamo insomma che per l'appunto insomma poi progetti di questo tipo di devastazione del territorio fatti senza nemmeno interpellare le popolazioni ce ne stanno a bizzeffe nel nostro territorio. Ci vuoi parlare un po' più nello specifico proprio di questo progetto contro il quale state cercando di battervi? È un progetto che ai suoi inizi. Anzi, ultimamente l'altro ieri se non sbaglio, proprio questa società che si chiama TAP ha vinto l'appalto per la costruzione di questo gasdotto. Questo gasdotto parte dall'Azerbaigian e arriva sott'acqua dall'Adriatico e dovrebbe approdare a Sanfora, che è una località un po' più su di Otranto. Dovrebbe attraversare il Salento sottoterra per un 5 km e sopra, ci deve essere insomma un tratto monitorabile, quindi sopra e a terra, e poi da lì dovrebbe connettersi alla rete SNAM ed essere portato al rigassificatore di Brindisi. Adesso il progetto è stato esposto proprio dall'azienda che vorrebbe fare i lavori. Naturalmente è stato esposto come un progetto molto vantaggioso per il territorio, si regalano i posti di lavoro, sviluppo, le bollette del gas insomma saranno dimezzate, e promesse del genere. Da parte della popolazione c'è una fortissima opposizione a questo progetto, ma le argomentazioni che vanno per la maggiore sono naturalmente la difesa del territorio nel senso di spendibilità turistica. Quindi insomma riteniamo che ci sia da fare un discorso più profondo, più argomentato, ecco, rispetto all'opposizione. Diciamo che è tutto in divenire. Si tratta di un progetto che, non vorrei sbagliarmi, ma fa parte del corridoio 5 e si dovrebbe concludere nel 2015. Comunque, insomma, come ho detto prima, è tutto in divenire. Quindi spero di avere ulteriori aggiornamenti che riguardino la loro posizione a questo gasdotto. Va bene, va bene. Senti, per ritornare invece un attimo proprio all'iniziativa di ieri, che chiaramente insomma trae spunto e ha cercato di portare la propria solidarietà alla Valsusa, insomma 40 minuti di blocco della stazione, insomma, sono un tempo abbastanza lungo, cioè non è andata così dappertutto, perché prontamente insomma nelle grandi città sono intervenute le forze di polizia, la CEDE, la Celere e via dicendo. Lì com'è andata invece dal punto di vista delle reazioni? No, il blocco è stato tenuto in modo abbastanza calmo, non ci sono stati momenti di tensione, anzi si è parlato molto con i passeggeri che erano scesi dal treno, alcuni dei quali insomma erano abbastanza nervosi, altri si sono dimostrati molto solidali. E peraltro è da sottolineare che a Lecce la questione dei treni è anche molto sentita, perché dagli ultimi tagli di Trenitalia si è rimasti abbastanza isolati, per cui si sono sovrapposte poi diverse tematiche oltre a quelle della TAV, e c'è stata insomma un'apprezzabile solidarietà da parte di passanti. Ci sono stati dei batti vecchi con qualcun altro, ma insomma niente di speciale, insomma cose abbastanza prevedibili. Ordinaria amministrazione, verrebbe da dire. Ordinaria amministrazione, si è parlato a lungo al megafono, sono stati distribuiti dei volantini dove appunto si spiegava perché la solidarietà al TAV, e di nuovo insomma viene messa in luce l'importanza di questo altro progetto del gasdotto leccese. Va benissimo. Io trovo che ci sia stata una bella partecipazione, insomma, che ci sia stata una buona risposta. Beh, è una notizia molto importante e fa piacere insomma che come dicevamo prima anche lì questa risposta sia viva e si faccia vivace. Quindi ecco, immagino che anche nei prossimi giorni avrete l'occasione di magari rivedervi, riparlare e riflettere ancora su questa iniziativa, magari anche di produrne delle altre. Vediamo un po' anche come risponde la città, insomma. D'accordo, senti, noi ti salutiamo, un grande in bocca al lupo. Va bene, un abbraccio. Saluti a voi. A tutti. Ciao. Ciao. Ciao.